Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. La cosiddetta manovrina di primavera varata dal governo e approvata nei giorni scorsi dal Senato contiene anche una serie di provvedimenti che riguardano direttamente l'autotrasporto. In particolare, sul fronte del contrasto alla concorrenza sleale praticata dai vettori dell'Est Europa attraverso varie forme di illegalità, a partire dal cabotaggio abusivo, viene imposto l'obbligo di disporre sul veicolo di una copia della comunicazione preventiva di distacco prevista dal decreto 136 del 2016. La mancata esibizione di questa carta può comportare sanzioni fino a 10.000 euro che devono essere pagati al momento dell'accertamento, altrimenti scatta il fermo amministrativo del veicolo. Sempre nella direzione di tornare ad un mercato più equilibrato, un altro provvedimento adottato è la decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni nel corso del 2016. Si tratta del cosiddetto regime de minimis, una misura che non soddisfa appieno le associazioni dell'autotrasporto, ma che resta l'unica adottabile all'interno dei vincoli imposti da Bruxelles. A favore dell'intermodalità, per il 2018 sono stati stanziati 34 milioni per il mare bonus e 20 milioni per il ferro bonus. C'è poi un altro punto che riguarda gli autotrasportatori, ma direi soprattutto gli automobilisti. Chi parcheggia nella zona riservata al carico scarico merci riceverà la multa automaticamente a casa. In queste piazzole, infatti, potranno essere installati i dispositivi elettronici di controllo, cioè quelli che sono già attivi in varie città nelle aree di sosta a pagamento. Prima si parlava del cabotaggio abusivo e degli squilibri del mercato dell'autotrasporto tra i paesi della vecchia e nuova Europa. Al di là degli effetti della crisi, sono queste le cause che a partire dal 2010 hanno determinato la scomparsa di quasi 17.000 aziende, praticamente il 15% del totale. Il dato è contenuto nel volume e dal titolo Un ritratto in cifre, 100 numeri per capire l'autotrasporto, scritto da Deborah Apolloni in collaborazione con Maria Carla Sicilia. In realtà, come spiegano le autrici, il numero delle imprese che hanno chiuso i battenti è superiore, 20.000. In gran parte si è trattato di imprese individuali, i cosiddetti padroncini, ma seppur in piccola parte il saldo negativo è stato compensato dalla crescita del numero delle SPA, delle cooperative e dei consorzi. Thomas Baumgartner è stato confermato presidente di Anita per il prossimo quadriennio. L'assemblea annuale dell'associazione si è svolta a Venezia ed è stata dedicata al trasporto e alla logistica nell'era digitale. Sentiamo Baumgartner al microfono del nostro Massimo De Donato. Noi abbiamo voluto proprio fare questo evento per sollecitare le imprese, i nostri associati a queste nuove sfide. Sappiamo che arrivano e sono anche sfide interessanti perché permetteranno al nostro settore di avere mezzi sempre più sicuri, perciò aumenterà la sicurezza sulla strada. Sono mezzi che con le nuove tecnologie, come per esempio il platooning, permetteranno ulteriori abbattimento dell'impatto ambientale, anche questo va bene che lo si porti avanti. L'automazione, la guida automatizzata è bene per tutti perché il fattore umano è sempre ancora il fattore più rischioso nel traffico stradale, perciò siamo solo favorevoli a queste nuove tecnologie e io credo che l'Italia e i vettori, gli imprenditori italiani siano pronti ad accettare la sfida e sono capaci anche di investire, di rinnovare i propri parchi proprio per poter reggere le nuove sfide. Prima si parlava delle norme inserite nella manovrina di primavera per arginare le forme di concorrenza sleale. Nelle scorse settimane la Commissione europea ha presentato il pacchetto Mobilità Pulita, che contiene una riformulazione delle regole sul cabotaggio orientate nella direzione di una ulteriore liberalizzazione dei servizi. Secondo questo schema non ci sarebbero più limiti al numero dei trasporti, anche se dovrebbero essere effettuati entro 5 giorni e non 7 giorni dall'ingresso in Italia, come stabilisce la normativa ora in vigore. Su questo punto sentiamo di nuovo Baumgartner. Per ora si trattano solo delle proposte che la Commissione ha fatto, però noi già intravediamo in queste proposte fatte dei rischi per il settore del trasporto italiano e non solo, perché sappiamo che il divario dei costi tra conducenti dei vettori dei paesi dell'est e quelli italiani è enorme e quindi una liberalizzazione così come proposta dalla Commissione europea di fatto sarebbe avrebbe degli effetti devastanti per il nostro settore. Consideriamo che già in passato sul trasporto internazionale avevamo avuto questo effetto e di fatto oggi la maggior parte dei trasporti internazionali vengono effettuati da vettori dell'Est Europa, con incrementi tuttora anche di 700% negli ultimi 10 anni delle quote di mercato sui nostri valichi verso l'Europa. Questa è la settimana del G7 dei trasporti che si svolgerà mercoledì e giovedì alla ex manifattura dei tabacchi nel cuore di Cagliari. Il tema centrale del vertice, al quale partecipano i ministri dei trasporti, dei sette, per noi ci sarà Del Rio, è la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle infrastrutture tra problematiche e opportunità per i territori. Una sessione sarà poi dedicata alla tecnologia, con la prospettiva ormai definita, come abbiamo peraltro appena sentito, di veicoli a guida connessa e automatizzata. Da Cagliari vi aggiorneremo nel corso dei nostri GR e dei nostri programmi. A proposito di sicurezza stradale, torniamo su un aspetto che talvolta passa in secondo piano, ma che in realtà incide in maniera significativa. Parliamo di ricambi e pneumatici non conformi montati su auto e mezzi pesanti, magari per risparmiare un po'. Spesso si rischia di pregiudicare l'efficienza del veicolo e quindi gli standard stessi di sicurezza. Ne abbiamo parlato con il prefetto Roberto Sgalla, che dirige le specialità della polizia, compresa quindi la polizia stradale. Spesso si cura la macchina, si fa magari anche attenzione alla stessa manutenzione, però non si cura in modo altrettanto accurato, altrettanto preciso i pneumatici. E noi lo vediamo spessissimo, in particolar modo alle campagne che facciamo proprio con Assogomma in determinati periodi dell'anno, dove facciamo dei focus di controlli più mirati, più accurati, anche più dettagliati, e troviamo tantissimi utenti con gomme assolutamente non idonee, con tagli profondi, con battistrade consumati. L'impressione netta è che ancora non c'è la consapevolezza che una gomma ben fatta, ben messa, ordinata, manutenzionata può salvare la vita, e invece una gomma assolutamente non idonea può provocare danni qualche volta irreparabili. Questo riguarda anche i ricambi d'auto, quando si acquistano magari con una certa leggerezza perché costano un po' di meno. Esatto, su questo credo che ci occorre costruire però un circuito virtuoso che parte da chi controlla, ma indubbiamente coinvolge anche chi vende il prodotto, perché indubbiamente credo che una responsabilità, come dire, importante anche sul piano sociale appartenga e sia anche di chi vende il prodotto. Dare un consiglio, indirizzare l'utenza verso quei prodotti che hanno danno garanzie maggiori di sicurezza, perché poi questo è il vero obiettivo, credo che rientri in quegli elementi, chiamiamoli, di responsabilità collettiva che dovrebbe coinvolgere tutti. Una volta bastava citare questa autostrada per evocare un simbolo dell'inefficienza della nostra rete, ma anche dell'insicurezza, degli scandali, delle infiltrazioni, della criminalità organizzata. Da qualche mese la Salerno-Reggio Calabria si chiama A2, Autostrada del Mediterraneo, e assicura ANAS non è cambiato solo il nome, il tracciato è più scorrevole, anche se i cantieri proseguono nell'ambito di una serie di interventi e programmati. E lungo questo tracciato prenderà forma la prima smart road italiana, cioè la prima strada intelligente, in grado cioè di dialogare con le infrastrutture che la compongono e con i veicoli che la percorrono. Per ribaltare definitivamente il vecchio stereotipo è stata presentata una campagna di comunicazione istituzionale, è la strada stessa che si racconta e che racconta il territorio che interseca un bel pezzo d'Italia tra Campania, Basilicata e Calabria. In particolare sono stati individuati 10 itinerari tra storia, natura, cultura e gastronomia che saranno richiamati dalla cartellonistica autostradale e dai totemi installate all'interno delle aree di servizio. Il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani. Una strada del riscatto, un riscatto del Sud che se lo merita. Per troppo tempo abbiamo avuto un Sud sgarrupato, con le strade che non si chiudevano e i cantieri che non finivano mai, e i posti che questa strada raggiunge sono bellissimi. Nessuno ci è andato fino ad oggi, anche per la paura di chissà che cosa dovesse succedere, invece questa strada li raggiunge. Ovviamente non si abbandona la strada. La strada sarà tra l'altro anche più tecnologica, stiamo investendo nel trasformarla nella prima smart road, quindi i cantieri continueranno, e fa bene al Sud, fa bene vedere che non si abbandona dopo lo sforzo atletico del completamento dei cantieri. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì alle 13.45, ora il GR da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.